diverse bellezze insieme confonde, ma see you.

Thank you. Yeah!

passioni del cuore. S'assonnava in placido oblio, mi ferve soltanto l'amore dell'uomo, l'amore di Dio. Ah, dai, canta, 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏帕瓦罗蒂演唱的著名歌剧咏叹调。 Thank you. lagrima negli occhi suoi spuntò quella festosa giovani invidia le sembrò all'azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di viole pioveva l'oro e il sole e folgorava l'oro il mondo pare alla terra un immane tesoro alle vostre parole, dov'è il nuovo dolore? avvicina all'ora della morte, e forse pria che l'ultima mia strofe sia finita, m'annuncerà il carnefice la fine della thank you. Allor ti ha avuto è stato